una alma forte, un'alma forte, e l'aspetto dell'amore lo paventa un cor di re. Destino dei danaci, chiave il petto, un'alma forte, un'alma forte, che l'aspetto della morte non paventa, non paventa un cor di re. L'aspetto della morte, che nel petto un'alma forte non paventa, non paventa.